Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Per quanto riguarda Veronica, con un intervento del genere fatto in campagna elettorale con lo scopo di danneggiare il marito, ho subito pensato che lo avesse fatto appositamente, in modo calcolato per divorziare, come poi è successo, e in modo da approfittare a suo vantaggio della situazione, per costringere il marito a lasciarla libera, dimostrandogli che riesce a danneggiarlo forse ancor di più rimanendo sposata. È l'unica occasione che ha, con un uomo che ha molta capacità nell'appianare le situazioni, fare rientrare i contrasti e che riesce a rivoltare tutto a suo favore. A mio parere, ha raggiunto l'esasperazione sufficiente per farlo e deve approfittare della finestra che le si è aperta davanti. Maria Cristina. Non sono religiosa, ma ascoltando la radio in questi giorni mi è venuto in mente l'episodio della Bibbia di Susanna e i vecchioni. Abbiamo adesso un vecchione che guarda, e probabilmente guarda soltanto, belle ragazze. In più abbiamo una moglie inviperita che si sfoga mediaticamente anziché telefonare alle amiche o assoldare un investigatore privato. E fin qui niente di nuovo. La cosa veramente triste è che in questo panorama politico sarò ancora una volta costretta a votare per il vecchione, che si spera smetta di guardare le giovani Susanne e cominci a pensare a cose più alte. Insomma, ancora una volta, come tante, tante altre volte, voterò turandomi il naso. È la democrazia, bellezza. Laura. Non mi pare che la situazione tra Silvio e Veronica andasse granché bene, dato che la signora l'ho sempre sentita nominare come Lario e mai come Berlusconi. E lui si comporta nello stesso modo da quando lo si vede sulla scena politica. Berlusconi, comunque, avrebbe, secondo me, bisogno di dar retta un po' di più al suo curatore d'immagine, sempre che ne abbia uno. Laura, Milano. Cara Radio 24, mi sembra che in questo momento così particolare della politica italiana, l'unica persona cittadina tra i cittadini degna di questo nome, che sia rappresentante del dissenso italico e che riesca a tener testa a Berlusconi con serietà, sia la sua ex consorte. Il resto è un triste chiacchiericcio balbuziente di fronte all'ingombrante eccesso euforico del nostro premier, al quale nessuno dei nostri politici, sia del governo che dell'opposizione, sa come porre un freno, anche se sono convintissima che se potessero lo farebbero ben volentieri. Si vede che il premier sta diventando imbarazzante e lo vedono anche i nostri politici. Letizia, una donna che lavora. Mi ha particolarmente sorpresa la virulenza delle espressioni usate dalla signora Lario, che ha definito ciarpame senza pudore le eventuali candidate provenienti dal mondo dello spettacolo. Sono abbastanza vecchia per ricordare che gli esordi della signora Lario furono proprio nel mondo dello spettacolo. Va bene, si trattava di teatro, ma erano allora arcinote le sue frequentazioni di uomini importanti a mo' di spintarella per sfondare. Adesso la signora si atteggia a gran dama, ma la sua resta una grave caduta di gusto e di stile. Che pena poi le livorose uscite del senatore Guzzanti. Gabriella. Egregio direttore, dopo Silvio, temo arrivi Pier Silvio, dichiara Franceschini il 27 aprile. E se invece arrivasse Marina? Se, come sembra, Franceschini voleva sottolineare la possibilità di una dinastia elettorale alla Kennedy o alla Bush, perché prendere in considerazione solo ed automaticamente Pier Silvio? Non potrebbe la signora Marina Berlusconi proporsi per le sue capacità e abilità già dimostrate nel mondo dell'impresa? Ho molta voglia di polemizzare e di dire che mi sembra che questa affermazione sia il risultato di un macismo che è talmente assorbito dal DNA dell'uomo da non riuscire neanche a riconoscerlo. Molto più facile è sparare sulle veline. Anna. Vorrei intervenire in riferimento alle veline europarlamentari. La cosa che più mi rattrista di questa vicenda non sono le pseudoveline, ma la totale indifferenza sul fatto che vi sono moltissimi laureati, ricercatori, persone capaci, che tutto il giorno offrono le loro capacità e conoscenza, e nessun politico fa qualcosa per esaltarle. Il solo fatto che basti avere una conoscenza in alto per fare il parlamentare non va bene. Oggi in Italia la cosa vergognosa è che la stragrande maggioranza di persone non si indigna più di nulla. Non si indigna della politica dei furbi, del fatto che sopra le tavole non ci siano più cose genuine o dell'inquinamento del nostro pianeta. La gente è assuefatta a tutto e non si indigna più. La cosa scandalosa è che anche la stragrande maggioranza dei giornalisti non si indigna più e la maggior parte dei direttori va ormai in televisione solo per parlare di Cogne, Perugia o Garlasco. Le TV parlano per ore e ore di ricette, mancano le inchieste. Non dico che manchi l'informazione, quella c'è, ma il più delle volte è taroccata. Lettera firmata. Ho provato a cogliere la vostra proposta di ricordare la partita di calcio più bella attraverso le squadre che al meglio hanno saputo interpretare la bellezza di questo gioco. Sono un appassionato laico di questo sport. Ho visto migliaia di partite, ma ammetto che per cercare di aiutare la memoria mi sono rivolto ad internet. Purtroppo, senza i risultati desiderati. Ciò che più mi ha colpito è stato trovare altre notizie legate alla cronaca più che altro. Da una parte l'aggressione nei confronti di una giovane donna colpevole di essere la compagna di un calciatore del Bologna. Dall'altra il commosso ricordo di una parte della curva barese alla memoria di un noto boss locale. Cosa non rara, purtroppo. Insomma, tutto questo, sommato a quanto già visto fino ad oggi, mi ha fatto perdere la voglia di continuare la mia ricerca, perché questo spettacolo quotidiano è davvero oramai insopportabile. Purtroppo credo sia un problema ben più ampio, e non solo legato al mondo del calcio. Nel nostro paese non è accettabile la sconfitta. Non può esserci qualcuno più bravo. Siamo bravissimi a inscenare continui processi dove alla fine il colpevole è sempre, stranamente, il giudice, l'arbitro o al massimo l'allenatore. Il mio sogno da bambino era legato a un pallone, il campetto sotto casa, l'unico gioco certo, quello che ci sfiniva sotto il sole d'estate e tra le pozzanghere in inverno, quando si tornava a casa infangati ma felici. Ora guardo due piccoli che giocano felici come me e non riesco a stimolarli verso questo mondo. A pochi metri dal nostro parco si sta consumando una bagarre in una partita tra giovanissimi. Si sentono solo le urla dei genitori. Gli insulti si sprecano. I miei figli mi chiedono perché sono così arrabbiati e faccio fatica a trovare una risposta convincente. È triste, davvero. Francesco, Milano. Anche quest'anno, puntuale come le zanzare, è arrivata la questua mediante i patetici spot 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, sicuramente efficaci nella loro querula unicità. Infatti l'elenco dei possibili destinatari dell'8 per 1000 comprende altre chiese, che forse non hanno le risorse o i privilegi della Chiesa Cattolica per potersi permettere anche un solo spot. Quanti italiani, però, sono a conoscenza del fatto che l'8 per 1000 non è un optional discrezionale, ma è un obbligo tassativo, che viene comunque prelevato sui redditi del contribuente, a prescindere da una sua esplicita indicazione? E quanti sanno che solo il 40% circa dei contribuenti esprime una scelta precisa? Infine, e questo è bello, quanti sanno che il prelievo sul 60% dei contribuenti che non hanno dato indicazioni viene redistribuito non in parti uguali fra tutte le istituzioni in elenco, ma proporzionalmente alle scelte del 40% dei contribuenti che hanno esplicitato l'opzione? Poiché quasi il 90% di questi ultimi ha destinato il proprio 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ecco che di fatto e di diritto, anche in assenza di indicazione da parte della maggioranza dei contribuenti, la quota maggioritaria viene attribuita alla Chiesa Cattolica. Quindi, cari concittadini credenti, non credenti o credenti in altro, sappiate che anche i vostri contributi finiscono quasi totalmente alla Chiesa Cattolica, anche se non avete dato indicazioni in questo senso. In concreto, soltanto per questa voce, alla Chiesa è mediamente destinato un gettito annuale di circa 1 miliardo di euro, del quale, per sua stessa dichiarazione d'uso, solo il 20% all'incirca viene destinato alle cosiddette opere di carità, mentre il rimanente finisce, tra l'altro, anche in mastodontiche costruzioni quale la Cattedrale di Padre Pio, progettata niente meno che da Renzo Piano. Molto altro ci sarebbe da dire sulla mancata laicità di uno Stato che codifica un rapporto privilegiato con una sola istituzione religiosa, contraddicendo in ciò articoli costituzionali su cui è fondato e smentendo così la propria natura democratica. Licia. Cara Licia, apprezzo la sua battaglia per la laicità, ma se mi permette, proprio l'8 per 1000 è un esempio di un rapporto corretto e costruttivo tra Stato e Chiesa. I cittadini possono infatti liberamente scegliere di destinare non tanto una quota delle proprie tasse, ma l'8 per 1000 delle entrate fiscali complessive allo Stato o alla confessione religiosa. E dato che si tratta di una somma che prescinde dalle imposte dei singoli, appare del tutto normale che la divisione avvenga percentualmente alle scelte esplicitamente espresse. Certo, resta il tema di fondo. È giusto che uno Stato finanzi una confessione religiosa anche se con forme di partecipazione democratica? Su questo punto i pareri possono legittimamente essere discordi, ma per chi ha a cuore la democrazia, lo Stato non è un'entità astratta che deve rispondere a leggi già scritte. Lo Stato ha un senso se è espressione dei cittadini, se nasce e si sviluppa sulla base di quel contratto sociale che riconosce, come afferma la nostra Costituzione, la sovranità al popolo. Ebbene, il popolo italiano con la sua rappresentanza parlamentare ha approvato la revisione del concordato e la legge del 1985 che ha istituito l'8 per 1000. Allora, si può certamente discutere e essere contrari a queste scelte, ma per essere laico lo Stato non può rinunciare ad essere nei fatti democratico. A Pisa c'è un'emergenza Rom. A causa della scellerata politica di accoglienza fatta da questo comune nel corso degli anni, siamo pieni di piccoli campi abusivi nelle periferie della città, che si affiancano a un grande autorizzato campo Rom a Coltano, fra Pisa e Livorno. Ora, di fronte all'emergenza, un consorzio di 9 comuni della provincia di Pisa propone una sorta di rientro con buona uscita, ovvero 500-1000 euro ad ogni Rom che voglia rientrare in Romania, con l'impegno a non tornare in Italia per almeno un anno. Il comune ha spacciato il progetto denominato Città Sottili come un grande successo delle politiche di integrazione con la comunità Rom. Ma i Rom che erano stati scelti per questo progetto di integrazione possedevano, nelle case offerte loro gratuitamente dal comune, un arsenale di armi e munizioni pronte a sparare per dirimere le questioni fra famiglie Rom rivali. Lo scorso anno furono fermati dal prefetto, che arrestò molti di loro, e questi erano i Rom affidabili, scelti per l'integrazione e portati ad esempio per il progetto Città Sottili. Il problema non sono gli incendi e gli allagamenti, ma l'esasperazione dei cittadini che questa giunta non riesce più a governare. Adesso stanno chiudendo la stalla quando i buoi ormai sono scappati. Negli anni Pisa ha accolto tutti, Rom, extracomunitari, eccetera, in numero molto maggiore di quanti il territorio potesse assorbire e far vivere dignitosamente. Ora la situazione sta esplodendo e viene fatta un'ordinanza contro la vendita di merce contraffatta, che ha però solo un potere dissuasivo. Nel senso che poi i vigili non sequestrano niente, si fanno solo vedere e si assiste a scene comiche, se non fosse che qualche vigile si è preso anche qualche cazzotto. Abbiamo un grande mercato bisettimanale dove accanto ad ambulanti regolari che pagano le tasse ci sono decine di venditori di merce contraffatta che da anni vendono indisturbati borse taroccate. Ora che c'è l'ordinanza, appena arrivano i vigili raccolgono la merce, stanno in piedi tutti insieme qualche minuto nella stessa area del mercato e quando i vigili si allontanano ridistendono la merce. Naturalmente tutti questi extracomunitari non campano solo di questo e la sera diventano la principale fonte di spaccio in una città universitaria piena di giovani come Pisa, Donatella. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.